Storiacce di Raffaella Calandra. Piazza Barberini, locale che solitamente fa 40-50 coperti tutti i giorni, aveva 4 persone a mangiare, perché col fatto che aveva 2 camionette, una sulla destra e una sulla sinistra, con 10 militari, la gente proprio passa dritta, neanche si ferma. Non ho frequentato più locali, però sono uscita e sono andata anche a vedere la partita allo stadio. Ma c'è anche meno gente in giro. Non è cambiato nulla, perché non si può vivere nella paura. La gente c'ha paura della metro e ha cambiato proprio i percorsi. Viaggio con il treno e a Termini ho paura, sinceramente, quindi arrivo e scappo di corsa. Poi trovasse i militari in metro, comunque fa una minima impressione, va un po' inquietante. Ve lo confesso, dopo le stragi di Parigi all'inizio è capitato anche a me di stare seduta al tavolino di un ristorante e chiedermi se potessero esserci dei rischi, di entrare in metropolitana e avvertire un brivido davanti a borse incustodite o di pensare se fosse o meno il caso di confermare quel certo viaggio o di partire proprio in quell'orario così affollato. Pensieri ai tempi del terrorismo. Gli attentati sono entrati nelle nostre giornate e, a quanto fotografa il Censis, stanno già cambiando anche le nostre abitudini più piccole. La minaccia è seria, lo sappiamo, e nessun paese è a rischio zero, come ripete la nostra intelligence. E l'Italia, per di più, sta per entrare in una settimana cruciale, con la prima della scala, inserita tra i bersagli dei terroristi di Daesh, e poi, ancor di più, con l'inizio del giubileo, che rende la minaccia nel nostro paese ancor più forte. Anche secondo l'FBI. Le indagini ci raccontano molto anche dei terroristi di Cosa Nostra, e allora stavolta parte da Roma, dal colonnato del Bernini che cinge il Vaticano, questa nuova puntata di Storiacce. La cosa più preoccupante del salto di qualità di Parigi è che c'è la probabilità, non tra virgolette campata per aria, che questi attacchi possono essere in qualche modo coordinati dalla centrale di Islamic State. Ma è giusto tenere insieme, accanto a Parigi, gli altri eventi che hanno immediatamente preceduto Parigi: l'abbattimento del charter con i turisti russi, l'attacco a Beirut, l'attacco nel Sinai, l'attacco in Tunisia. E cioè noi abbiamo, tra virgolette, una minaccia che è globale. Hanno attaccato le spiagge, i musei, gli aerei delle vacanze, e poi, in un normale weekend d'autunno, come potrebbe essere questo, hanno attaccato i ristoranti, le sale da concerto e lo stadio. È per questo che, giustamente, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Marco Minniti, parla di minaccia globale. Una minaccia che cammina insieme a noi, che segue le nostre azioni più normali, anche se i singoli attacchi potrebbero essere stati decisi nel feudo militare di Daesh, nella martoriata Siria, cioè. È lì che, secondo l'intelligence, si stabilisce dove e quando colpire. È per questo allora che, soprattutto dopo Parigi, la paura entra nelle vite degli italiani e, a quanto prevede il Censis, potrebbe modificare, almeno sull'immediato, alcune abitudini, come quella dei viaggi, ad esempio, il direttore Massimo Valeri. Nella fine della crisi c'è stato un nuovo ciclo di paure legato all'incolumità personale, quindi i furti nelle abitazioni, le rapine, addirittura è montato nell'opinione pubblica anche una voglia di legittima difesa, addirittura con il ricorso alle armi, al possesso delle armi. Oggi viviamo un nuovo ciclo di paura legato al terrorismo internazionale. Al momento è difficile prevedere gli impatti di questo nuovo ciclo di paura sull'economia in termini di consumi. Posso ricordare che si calcolò dopo l'11 settembre che quegli avvenimenti comportarono una riduzione del PIL degli Stati Uniti nell'ordine dello 0,1%. È vero anche che quel timore durò soltanto 3 mesi, poi si ritornò ad una vita normale. Probabilmente quello che abbiamo di fronte è l'esigenza di un adattamento a un nuovo contesto che è di fatto cambiato, forse in maniera strutturale. L'incertezza diventa una componente probabilmente costante del nostro futuro e della nostra vita quotidiana. È soprattutto il settore dei viaggi che potrebbe avere una ricaduta maggiore rispetto alla paura a attentati? Questo è il primo elemento che si sta diffondendo nella percezione diffusa. Si registrano delle cancellazioni di viaggi, di prenotazioni. Il primo atteggiamento è rinunciare a prendere l'aereo, soprattutto per fare viaggi, soprattutto nelle aree considerate a rischio. Bisognerà vedere di qui ai prossimi mesi quanto questa componente di timori legati a possibili eventi traumatici e drammatici rientri in un, come dire, circuito razionale finale di presa di posizioni che poi riportino a prendere gli aerei, a fare i viaggi. Ci torneremo su questo più avanti in Storiacce per unire i dati di questa fotografia dell'Italia con gli elementi investigativi sul terrorismo. Di sicuro pensando agli ultimi attentati anche prima di Parigi, a quello di Tunisi al Museo del Bardo ad esempio, o all'esplosione del volo decollato dal Mar Rosso con i turisti russi, o ancora alla strage sulle spiagge della Tunisia, tutti noi inconsciamente ci stiamo chiedendo se cambiare o meno in qualche modo le nostre abitudini. Ci avete pensato progettando le vacanze di Natale, prendendo le metropolitane affollate di Milano o di Roma, o ancora passando davanti ad un simbolo della religione ebraica o della cristianità, costante bersaglio soprattutto ora con il Giubileo, visto che i militanti non si stancano mai di minacciare la Santa Sede, emerge anche nell'ultima inchiesta della Procura di Brescia, che ha portato in carcere 4 jihadisti. I messaggi più allarmanti sono stati quelli riferiti al Santo Padre. E adesso dove andrai? Ricordati che non ci sarà più un Papa dopo questo. Questo è l'ultimo. State buoni, racconta la verità che loro verranno in Vaticano. Andiamo proprio a Roma, dove la presenza dei militari e delle forze dell'ordine nel loro insieme è più che triplicata, dove ormai, passando per il centro, le mimetiche dell'esercito sono dappertutto. Una presenza a cui la gente si sta abituando, a dire il vero, e che però conferma anche in modo plastico, potremmo dire, lo stato di allerta, soprattutto in questi giorni caldissimi, con Natale alle porte e l'inizio del Giubileo. Il fatto di annullarlo non credo che sia giusto, anche perché sennò sarebbe proprio dargliela vinta in un certo senso, non mi sembra giusto. Però era un Giubileo che secondo me si poteva benissimo rimandare. Penso che saranno i Giubilei come tutti gli altri, no? Io già ne ho fatti parecchi i Giubilei, Sapendo che l'ISIS comunque va contro a cristianesimo, cattolicesimo e anche il Papa, diciamo. Non andrai a Piazza San Pietro, immagino. No, Piazza San Pietro no, la guardo in televisione. Non me la sento, no. Beh, sono abbastanza tranquillo. A questo punto che facciamo? Ci chiudiamo dentro casa e uno non si muove più? No. Abbiamo visto che quando vogliono fare un attentato, quando si mettono in testa di farlo, lo fanno. Ma secondo me le persone saranno molte, molte, molte, molte meno, e come tutte le cose di Roma alla fine riusciremo a fare quello che dovremo fare. Come abbiamo sentito in queste voci di romani raccolte per noi da Nazareno Orlandi, le minacce esplicite all'Italia e a Roma, rilanciate soprattutto dai servizi segreti americani, hanno lasciato una traccia. Se da sempre il Vaticano e Roma, quindi, cuore della cristianità, è presente nella propaganda jihadista, dopo gli attacchi di Parigi l'FBI ha diffuso un'allerta specifica per il nostro paese e ha indicato come possibili obiettivi San Pietro e a Milano il Duomo e la Scala. Appunto, la settimana prossima comincia il Giubileo, l'8 dicembre, e il giorno prima, nel giorno di Sant'Ambrogio, come sempre, la prima della Scala. Queste date sono cerchiate col bollino nero, potremmo dire, più che rosso, per dirlo con un linguaggio che non è certo dell'intelligence, ma che è più del traffico sulle strade, degli spostamenti, delle vacanze, ma che forse rende bene l'idea. Le misure di sicurezza, già molto forti allora, sono state ulteriormente rafforzate e i luoghi simbolo soprattutto e i cosiddetti obiettivi sensibili sono finiti sotto scorta. Ma evidentemente, come ricorda il prefetto di Roma Franco Gabrielli, nonché ex capo dei servizi segreti, non è quello che vediamo il vero controllo. Più che l'esercito con la mimetica, sono i nostri 007 invisibili a lavorare per prevenire gli attentati. Dal mio punto di vista la differenza la fa come si dispongono sul territorio i numeri più che i soggetti che si vedono. A me interessa i soggetti che non si vedono e che lavorano perché non si veda. Che il controllo si espliciti con la camionetta dell'esercito e due militari H24, io vi induco semplicemente a fare un calcolo matematico, nemmeno l'esercito degli Stati Uniti potrebbe in qualche modo garantire questo tipo di sorveglianza. Parla anche dei ripetuti allarmi bomba il prefetto. Roma, soprattutto nei giorni immediatamente dopo Parigi, è entrata nel panico con continui allarmi che hanno ripetutamente bloccato la circolazione sulle metro cittadine, già rallentate a dire il vero, per usare un eufemismo, da tutti i loro problemi totalmente indipendenti dal terrorismo. Trovarsi però in una metro affollata con un annuncio di evacuazione e un cortese invito a non farsi prendere dal panico non è però piacevole, perché se la ragione sembra suggerire che sarà di sicuro un falso allarme, difficile restare indifferenti, e allora c'è chi decide di prendere la macchina, di camminare a piedi o di evitare certi punti caldi come Termini, e chi invece ripete che non possiamo smettere di vivere. Ma anche tutto questo conferma che il terrorismo è già entrato nelle nostre giornate, e da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Storiacce. Piazza Barberini, locale che solitamente fa 40-50 coperti tutti i giorni, aveva 4 persone a mangiare, perché col fatto che aveva 2 camionette, una sulla destra e una sulla sinistra, con 10 militari, la gente proprio passa dritta, non neanche si ferma. Non ho frequentato più locali, ma c'è anche meno gente in giro. I terroristi vogliono disintegrare il nostro modo di vivere. Noi dobbiamo rispondere con più teatri, con più cultura. Non possiamo rassegnarci a vivere nella paura. Se accettiamo di perdere la libertà, ragazzi, diventiamo come loro. Il terrorismo vuole distruggere il nostro stile di vita, avverte il presidente del Consiglio Matteo Renzi. E come successe già dopo l'11 settembre, questo purtroppo sta effettivamente avvenendo. Si cancellano dei viaggi, si restringe il mondo in cui viaggiare e a volte anche il modo. Questi attentati di matrice islamica rischiano poi anche di cambiare il nostro rapporto verso le comunità straniere in Italia. Ma noi non siamo la Francia, e qui, rassicura il direttore del Censis Massimo Valeri, non ci sono le banlieue. Quello sul terrorismo è un capitolo significativo dell'ultimo rapporto Censis. C'è un rischio che la differenza del religiosa catalizzi le paure, e quindi che queste diversità diventi una frattura. Questo è quello che è successo ad esempio nelle banlieue parigine o nelle inner cities londinesi, dove c'è una forte concentrazione etnica legata a una forte concentrazione di disagio sociale, e quindi quelle differenze diventano delle fratture vere e proprie. Noi in Italia abbiamo un modello di integrazione degli stranieri molto diverso. Innanzitutto nelle nostre città non ci sono delle concentrazioni etniche così forti, ma soprattutto gli stranieri, ormai più di 5 milioni, che vivono in Italia, inseguono una proiezione di crescita verso una condizione di ceto medio. Sono stranieri che fanno impresa. Al contrario, nelle banlieue parigine, ad esempio, c'è un rancore delle seconde e delle terze generazioni dovuto a promessa tradita di ascesa sociale rispetto a un miraggio di benessere, di industrializzazione, seguito da, che era quello che seguivano i loro genitori che venivano dal Maghreb. In Italia c'è un accrescimento, c'è un'ascesa sociale da parte degli stranieri, e ci sono processi minuti di integrazione, quotidiani, quindi c'è un dialogo molto più aperto tra italiani e stranieri di quanto non avvenga ad esempio nelle banlieue parigine, perché in quei luoghi l'Islam radicale è diventato il vettore di un rancore che nasce da una mancata ascesa sociale. Il rancore che cova in certe periferie di Parigi o Bruxelles non c'è da noi, questo è vero. Ma è altrettanto vero, guardando alle cronache recenti, che bastano pochi uomini per commettere terribili stragi. E sono passati per l'Italia anche 2 terroristi di Parigi, e questo fa supporre che almeno dovevano avere qualche contatto, una rete di favoreggiatori, ma quanto ampia. E poi, come sempre si ripete, il vero rischio sta nei cosiddetti lupi solitari, singole persone radicalizzate capaci di progettare attacchi. Diverse inchieste hanno portato alla luce cellule più o meno piccole di jihadisti, ma sempre con contatti internazionali, come quelli nei Balcani, crocevia dei foreign fighters europei. E poi solo quest'anno sono state già 60 le persone espulse perché considerate pericolose per il paese. Le cifre le dà il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Abbiamo di fronte a noi una organizzazione che ha ambizioni, soldi e uomini che nessuno ha mai avuto. Nessuna organizzazione terroristica aveva avuto la pretesa di farsi Stato. Questa ambizione, l'idea di farsi Stato, è l'idea stessa di cancellare i confini disegnati da decenni e da secoli in alcuni casi, ripristinando i confini dell'antico califfato. Quali sono le entrate dell'Islamic State? Si va dai sequestri di persona al contrabbando del greggio sul mercato estero, ma anche sul mercato interno, si va al resto di altre fonti di approvvigionamento energetico, si passa dal mercimonio di opere d'arte e si traduce poi anche nella esazione delle tasse, cioè nel pagamento dei tributi da parte dei cosiddetti cittadini dello Stato islamico. Noi in Italia abbiamo fatto uno sforzo di prevenzione, abbiamo controllato dal 1 gennaio ad oggi oltre 56.000 persone. Abbiamo controllato perché pensavamo che ci fossero ragioni di controllarle. Abbiamo perquisito oltre 8.000 veicoli. Abbiamo controllato 160 navi, abbiamo espulso dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza dello Stato 60 soggetti che hanno dato prova di radicalizzazione. La città dove l'allarme terrorismo si sente in modo più forte è senza dubbio Roma, la capitale, il centro della cristianità, la sede anche del giubileo al via l'8 dicembre. E alla prevenzione e alla sicurezza per quest'anno santo straordinario, deciso poi all'ultimo momento, si lavora da tempo. E se è vero che bisogna evitare la sindrome della paura, come ha ricordato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi, Marco Minniti, è anche vero che la paura ha già cambiato le nostre abitudini. Così da tempo, ad esempio, nelle stazioni si avvicina ai binari solo chi deve effettivamente partire e i controlli obbligano inevitabilmente ad arrivare con largo anticipo, come negli aeroporti. Senza che ce ne rendiamo conto, allora piccoli gesti quotidiani all'improvviso si modificano. La gente c'ha paura della metro e ha cambiato proprio i percorsi. Cioè io vado avanti e d'altronde non è che uno si può fermare e non vive più. Viaggio con il treno e a Termini ho paura, sinceramente. Termini mi sembra un punto molto facilmente attaccabile, perché comunque c'è molta gente di continuo, quindi un po' di paura c'era comunque, onestamente, anche perché poi trovasse i militari in metro comunque fa una minima impressione, va un po' inquietante, però io già onestamente sento un po' di meno la cosa. Sarà che purtroppo siamo talmente anche un po' abituati. Io vivo in una periferia, cioè sto a Viale Marconi, quindi mi devo spostare principalmente coi mezzi. Metro B. Però da quando è successo il fatto evito e prendo il 170. Per la paura il mito classico aveva addirittura una personificazione. Linea allora alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Phobos, il terrore, in genere marciava sui campi di battaglia al fianco del dio della guerra Ares, ma la paura poteva correre anche nelle città, tra chi non combatteva in prima linea. Il terrore riguardava anche i non combattenti, le donne, i bambini, gli anziani. Era in genere terrorismo di Stato, il terrorismo imperialista degli ateniesi o dei romani che facevano terra bruciata colpendo le popolazioni civili. Già nell'antichità, comunque, troviamo un terrorismo non di Stato. L'omicidio politico, l'attentato, è frequente sia ad Atene sia a Roma. Esisteva anche nell'antica Palestina un gruppo che praticava una strategia del terrore, anche su scala transnazionale. Li chiamavano sicari. La parola è entrata nella nostra lingua come sinonimo di killer, ma nel primo secolo d.C. i sicari erano estremisti ebraici che compivano attentati armati appunto di sica, una spada corta. Le loro prime vittime erano gli stessi ebrei non intransigenti. Alcuni consideravano i sicari non terroristi, ma eroi della resistenza contro l'impero romano. Uno storico ebreo, amico di Roma, Flavio Giuseppe, narrava invece di stragi orrende compiute dai sicari. In un solo villaggio 700 donne e bambini sgozzati, le case demolite. Ci viene detto anche che i sicari cercarono di esportare la strategia del terrore fuori dalla Palestina, ad Alessandria d'Egitto, dove c'era una grande comunità ebraica. Gli stessi ebrei del posto li denunciarono ai romani. Altri sicari agirono a Cirene, in Libia, le stesse zone che oggi sono minacciate dall'ISIS. E a voi, il terrorismo e la paura ha cambiato qualche abitudine? Oppure semplicemente siete diventati più fatalisti? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter, l'account è Raf Calandra. Ci trovate poi anche sul blog Storiacce. Sul sito invece di radio24.it trovate uno spazio per le vostre segnalazioni. Raccontateci le vostre vicende, le pubblicheremo nella pagina delle vostre Storiacce. Questa, come tutte le altre puntate, è riascoltabile dal sito radio24.it. Ciao a tutti, un saluto da Raffaella Calandra. Fabbrica 2.4, viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it.